mercy. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Oh, su chi sono c'è? Gigi D'Agostino. Capisci? Qui si festeggia con cassa e basso, cassa e basso, cassa e basso, cassa e basso. E basso. Giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona a Pavia. Pavia. Pavia. Discoteca Metropolitan a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passare dei giorni. Albert Einstein. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Musica mentale. Quiero ballar. Otra cosa, la mia mente è smusicosa. Non intendo otra cosa, la mia mente è smusicosa.

ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego. Il 5 dicembre del 1901 nasce Walt Disney, autore di fumetti statunitense. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte, discoteca La Gara, Torino. È più facile spezzare, spezzare, spezzare. Sprezzare un atomo che è un pregiudizio. Albert Einstein. Il cammino di Gigi D'Agostino. La musica ben detta. Il cammino. La musica di Gigi ti salva quando ti senti depresso e quando vuoi dimenticare di essere te stesso. Aspetta, mi rivio un attimo. Ciccio di Lamezia. Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Potete dire quello che volete a chi volete. 333-64-67-662. Arriva del folclorista, di Mondovì. Dedico a Gianni di Torino la passione per i nostri 7 anni meravigliosamente splendenti. Yeah.

ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Alla faccia di chi ci vuole male e non distingue lo zucchero dal sale. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, non è un brodino. Venerdì 8 dicembre 2006. Sabato 9 dicembre 2006. Gigi D'Agostino suona in Austria. Venerdì 8 dicembre 2006, discoteca Starlight. Sabato 9 dicembre 2006, discoteca Nachschied, Innsbruck, Austria. È come se tutto fosse strano, area, sulle mani. È come se tutto fosse strano, area, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, area, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, area, per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Area, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Area, per Gigi D'Agostino. Sì, area. Sì. Area. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... un momento. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Se riparte maestro Corteadro Erburattino. Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Guido da Torino. Sono appena tornato insieme all'amore della mia vita. Vorrei dedicarle "Per me amore". Sono le parole che le ho detto nel periodo in cui non stavamo insieme. E lei è tornata da me, grazie a te. Belinda, sei la mia vita. Un saluto da un tamarro d'occhio. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani, quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo, da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Forse vuol dire.

Gigi, sono Alemiasi, quello che dice in tutti i casi. Intanto ti volevo mandare un abbraccio forte forte e poi volevo dedicare un pensiero ad una persona che per me è molto importante. Ne abbiamo passate tante e tantissime altre ne passeremo, facendoci forza l'un l'altro nei momenti difficili. La distanza da casa, da mamma, papà, quelle materie che sembravano scogli insormontabili. Ma quanti bei momenti insieme. Come venerdì, il 1° dicembre. Vederti lì, bella come il sole, con la tua tesi tra le mani e i tuoi sogni nel cuore. Vederti laureata è stata la gioia più bella della mia vita. Ti voglio bene, Mary. Sarò sempre con te, sorellina. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life, because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away, and I'll fly with you. Ciao Gigi, sono un po' giù di morale perché il tipo che mi piace non mi chiama. Puoi dire a Marco di chiamare Paola di Torino? Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Gigi D'Agostino.